Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, graminace, permettendo ed infierendo su di noi, parleremo di facce feroci, di inni, del rapporto che lega patate e marxismo, nonché della visione più e meno stereoscopica, diciamo così.